E allora, buongiorno a tutti e tutte, e sono le 15 e 8 minuti primi in questo momento. Oggi è mercoledì 28 marzo del 2012, quindi sta finendo il mese di marzo e siamo in piena primavera. La primavera che è una primavera, per chi ci ascolta dalle sbarre, è una primavera con le sbarre, quindi in primavera, per chi è stato in carcere sa che il peso della galera è più pesante che in altri periodi, perché appunto quella, come dire, la primavera porta con sé la voglia di correre sui prati, rotolarsi, andare a, così a sentire il profumo dei fiori che sbocciano, dell'erba, degli alberi, dei prati, che so, tutte cose che in carcere vengono negate, ma anche delle relazioni umane che chiaramente in primavera probabilmente assumono maggiore intensità. E dunque un carissimo abbraccio e saluto a coloro che ci ascoltano privati della propria libertà, quindi dalle carceri di Roma, e ovviamente, anche se non ci possono ascoltare, anche a tutti coloro e tutte coloro che stanno nelle galere di questa, di questo stato, di questo paese e anche di tutto il mondo. Questa, la trasmissione di quest'oggi la divideremo in due, affronteremo prima il problema del dibattito che c'è, che per fortuna il dibattito c'è, non vediamo ancora delle mobilitazioni, però noi spingiamo perché ci siano, il problema degli OPG e delle questioni che aprono, che la chiusura degli OPG, perlomeno progettata per il prossimo anno, porta con sé. E poi le questioni inerenti ancora al carcere, abbiamo detto, alcuni preparano questa, i radicali in particolare, questa marcia per Pasqua, chiedendo l'amnistia, però poi il punto che la chiedono in modo che non ci sembra del tutto consono, comunque il problema è che non si vedono altre realtà che oggi lottano realmente contro il carcere, e quindi bisogna appunto fare in modo che ciò avvenga. La seconda parte della trasmissione affronteremo un tema abbastanza specifico, il fatto del lavoro in carcere. Il lavoro in carcere, c'è venuta una segnalazione, quindi parliamo in un caso specifico, ma è estremamente generalizzabile a tutti e tutte coloro che lavorano in carcere. In carcere, sapete, la cosiddetta merced, cioè il salario del lavoro dei detenuti in carcere, è un terzo dei contratti collettivi di lavoro nazionale, quindi già molto ridotto, estremamente ridotto, ma poiché il Ministero, il Governo, insomma, quello precedente e quello attuale hanno tagliato ulteriori fondi al carcere, oggi arriviamo a situazioni che dire risibili a dire poco, cioè detenuti che lavorano in carcere vanno a prendere nemmeno 50 euro al mese, quindi vedremo questo problema e proveremo a sentire anche chi ne sa un po' più di noi. Va bene, ci prendiamo un piccolo stacco musicale e poi iniziamo la prima parte di questa trasmissione. You're wearing a mask. E allora, diciamo intanto un saluto a quei due ragazzi che non ci possono ascoltare perché sono rinchiusi ancora all'Istituto per Minori di Palermo. Avevano tentato la fuga, gli era anche riuscita qualche giorno fa dal carcere minorile Malaspina di Palermo, e con un'ingegnosa evasione, molto ingegnosa, è riuscita fino all'esterno del muro di cinta. Poi è scattato l'allarme, purtroppo sono stati ripresi. Comunque non demordete la riconquista della libertà, credo che debba essere comunque perseguita ad ogni costo. Andiamo quindi al problema degli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali. Sappiamo che questo nel decreto salva carceri, come l'hanno chiamato, c'è stata anche questa norma della chiusura l'anno prossimo, nel febbraio 2013, degli OPG. E allora abbiamo già detto qualcosa, adesso leggiamo l'articolo di Dario Stefano dell'Aquila di Antigone Campagna, che si è occupato molto degli OPG, soprattutto perché in Campania ce ne sono due, è l'unica regione che ne ha due, ad Aversa e a Napoli Sant'Eframo, e quindi li conosce a fondo, e sentiamo cosa dice. Allora, Dario Stefano dell'Aquila: gli ospedali psichiatrici giudiziari devono chiudere entro il febbraio del 2013, è quanto dispone la legge impropriamente detta svuota carceri, di recente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Quindi ormai è legge. Forse è superfluo osservare quanto importante sia questa disposizione. Fa questa premessa, no? Per merito della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, presieduta da Ignazio Marino, dopo anni di lotte e di denunce sulle condizioni detentive all'interno dei manicomi giudiziari, sui letti di contenzione, no? L'abbiamo anche visto, sulla sequenza impressionante di morti, sembra trovare termine questa vergognosa vicenda. È anche forse il caso di ricordare, sia pure en passant, che quella che in tempi recenti era una denuncia solitaria e di pochi, tra tutti, dice, mi piace ricordare Alberto Manacorda e Sergio Piro, che misero in luce, ignorati da tutti, questo lo aggiungiamo noi, però allora ignorati da tutti, le vergogne che avvenivano negli OPG in Italia, dove sono inchiuse 1500 persone, ricordiamo. Adesso per fortuna è andata in televisione questa vicenda dopo la commissione senatoriale diretta da Ignazio Marino, e la questione è, insomma, la vergogna. Molti hanno gridato a lager, perché sono dei veri e propri lager, non hanno niente da invidiare a quelli che abbiamo visto nei film di tipo Auschwitz, questa roba veramente dei luoghi di tortura e di degrado. E vabbè, quindi dice, però fino a ieri intanto, dice, ricordiamo che le denunce fatte anche bene da tipo questi qui di Sergio Piro e altri sono state ignorate, e anche continua dell'Aquila, è stata addirittura raccolta e questa anche il Presidente della Repubblica l'ha chiamata un orrore medievale. Varrebbe solo la pena di domandarsi perché mai nessuno ha mai risposto dinanzi a un giudice di questo orrore, ma questa forse è un'altra storia. Quindi fa questa breve premessa e poi affronta il tema. Il tema è che è oggi prioritario affrontare è come si chiudono gli OPG, perché chiudere sì, ma come li chiudiamo e con che cosa saranno sostituiti? È una questione che interessa da vicino una regione che vede la presenza di ben due manicomi. Parla della regione Campania, quella dove si trova lui, Aversa, e a Napoli, in Campania sono due manicomi criminali, che ha circa 165 cittadini campani internati in queste strutture. Secondo la norma approvata questa legge, la legge svuota carceri, gli OPG saranno sostituiti da strutture esclusiva gestione sanitaria all'interno. Questa è l'ambiguità su cui abbiamo puntato i riflettori da tempo e che vorremmo cercare di divulgare, ma purtroppo ci rendiamo conto tristemente e amaramente che ancora c'è molta sordità in giro. Attenzione, allora tutti hanno urlato quando hanno visto quei filmati sugli OPG e hanno detto mai più, eccetera. E quindi hanno detto un sospiro di sollievo quando il governo ha detto li chiudiamo. Aspettate però, fermate, perché è inutile salvarsi sempre questa ricerca di salvarsi la coscienza, è una cosa che non sia veramente vergognosa di un paese che ha una cultura, basta mettersi a posto. Allora, verranno sostituiti da che cosa? La legge dice, ed è una frase estremamente ambigua, e la riporta anche Stefano Dall'Aquila. Dunque, verranno sostituiti da strutture A, esclusiva gestione sanitaria all'interno, quindi all'interno di questi nuovi piccoli luoghi adibiti alle persone che hanno delle disturbi mentali, internamente avranno soltanto una esclusiva gestione sanitaria, ma la cui vigilanza esterna sarà affidata alla polizia penitenziaria. Perché? Perché dice la legge che all'interno sarà la gestione totalmente sanitaria, all'esterno sarà saranno custoditi. Il termine custoditi rimanda alla custodia della polizia penitenziaria, quindi probabilmente, dice Dell'Aquila, saranno gestiti dalla polizia penitenziaria all'esterno. Quindi ancora una volta luoghi chiusi, luoghi impenetrabili, luoghi che non hanno una relazione con la società esterna. Continua, sarà un decreto del Ministro della Salute adottato d'intesa con il Ministero della Giustizia e con le regioni a definire entro il prossimo 31 marzo, cioè quindi fra 4 giorni, 3 giorni, i requisiti di queste strutture. Finora non se ne ha notizia che cosa hanno detto, che cosa ha detto il Ministero della Salute. E non c'è stato però da quando è stato fatto in questo mese, in questo marzo, una pressione della società per che il Ministero e anche di trasparenza. Noi vorremmo sapere quali sono queste misure che il Ministero della Salute prevede per questi nuovi piccoli micro OPG, ciascuno in ogni regione, o più di ciascuno, perché li vogliono fare piccoli, quindi ne verranno più di uno in ogni regione. E va bene, quindi bisogna capire come sarà fatto. Entro il 31 marzo il Ministero sta preparando, forse l'ha già preparati, ma queste cose che avvengono clandestinamente è vergognoso. Non si può accettare che un governo, un ministero della salute legiferi, quindi faccia i regolamenti per questi micro OPG che dovranno sostituire i grossi 6 manicomi criminali senza che ci sia un dibattito nel paese, nella società. Continua Dell'Aquila. E qui i problemi che sembravano risolti si riaprono tutti, perché il rischio che dalla chiusura degli OPG nascano per gemmazione piccoli manicomi residenziali è molto alto. Prima di tutto perché la norma non ha inciso sul meccanismo delle misure di sicurezza. Questo è il punto, le misure di sicurezza. Poi che il TSO, tutte queste questioni attengono alle misure di sicurezza previste dal codice penale e che permettere a una persona di non essere trattata al pari dell'altra, di un'altra persona ritenuta normale. Pertanto, anche in futuro, dice Dell'Aquila, per i sofferenti psichici autori di un reato non si daranno pene con un termine preciso, ma misure detentive che potranno essere, come avviene oggi, prorogate senza limite all'infinito. I famosi ergastoli bianchi sono questi. Negli OPG si entrava per un reato, che so, spesso la gente rispondeva male a una guardia, gli dava uno spintone, cioè dava in escandescenza in strada, quindi faceva anche un furto, piccole cose, non veniva condannata secondo il codice del male, che sarebbero stati alcuni mesi, al limite un anno di galera, che aveva un inizio e una fine, ma venivano dichiarati infermi di mente, portati nell'OPG, lì il tempo si fermava totalmente e quindi quei 2-3 mesi o un anno da scontare diventavano infiniti, perché dall'OPG non esci quando hai finito una pena, ma esci quando un medico ti dichiara non più infermo di mente, ti dichiara, toglie la clausola di pericolosità e quindi, che però non lo fa quasi mai, perché si dovrebbe assumere una responsabilità che non si assume. E vabbè, quindi avremo appunto il rischio, dice Dell'Aquila, che avremo delle pene detentive infinite, ergastoli bianchi. In secondo luogo, perché ne regna assoluta incertezza sulla tipologia e sulla natura delle strutture che andranno a sostituirli. Se, come si ipotizza, le strutture avranno una capienza di 20 o 40 posti, le vogliono fare piccoli, no? Giustamente, no? Che vuol dire che in Campania ci saranno circa 8 di queste nuove strutture, circa 180 sono gli infermi di mente che hanno commesso dei reati in Campania, quindi 2 per 8 strutture. E se già oggi in molte strutture residenziali ordinarie, quelle ordinarie, non quindi per chi ha commesso reati per il disagio psichico, prevale il modello della custodia a quello della cura, viene da chiedersi che cosa possono diventare delle strutture destinate per intero a ospitare sofferenti psichici accompagnati da uno stigma indelebile. Non bisogna nemmeno sottovalutare il rischio che, vista l'alta tariffa che comporta la presenza in una struttura di questo tipo, e qui c'è il business penitenziario, oltre 100 euro al giorno viene a costare una persona disturbata di mente inserita, perché tra infermieri, no, psichiatri, eccetera, eccetera, si inneschi una dinamica di interessi corporativi del business sanitario. Una dinamica che privilegia i modelli di scatolette residenziali a progetti individualizzati presi in carico, cura e reinserimento sociale, perché garantisce appunto il massimo del risultato in termini di profitto. Quindi fare tante di queste scatolette chiuse in cui tenere all'infinito delle persone, siccome per ognuno di questi lo Stato sborsa 100 euro al giorno, e quindi sarà lucroso tenerli e non farli più uscire, un po' come è successo in America con la privatizzazione del percorso di reinserimento, che non vengono mai dichiarati reinseriti i detenuti, perché mantenendoli dentro il carcere privato prende i soldi dallo Stato, no? Che prende, per ogni detenuto in via di reinserimento il padrone del carcere privato prende i soldi, e quindi dice: ma facciamo un altro po' di reinserimento che non è concluso, in modo che prende altri soldi, e non si esce più dal sistema carcerario. Così avverrà anche qui. Forse vale la pena ricordare il caso di San Gregorio Magno, quando il 15 e 16 dicembre, ricorda, là, del 2001 prese fuoco una struttura intermedia residenziale, non era un OPG, queste addirittura meno chiuse, dovevano essere quelle che avevano sostituito i manicomi civili, non quelli criminali, e dove si trovarono la morte 19 persone che provenivano da manicomi civili, eppure stati là dentro, prese fuoco questa struttura, le porte erano chiuse, i cancelli erano chiusi, quindi non era una struttura civile, cioè aperta, perché altrimenti sarebbero scappati, ma si trovarono imbottigliati là dentro, le guardie di custodia fuggirono, i cancelli rimasero chiusi, le porte chiuse, e loro morirono bruciati, 19 persone. Ovviamente anche qui inchieste si fa per dire. Vale la pena ricordarlo, specie in questa fase, per dire che la chiusura di un manicomio non è la sostituzione di una scatola grande con una scatola piccola, ma significa la restituzione del sofferente a una vita il più possibile normale e comunque non per forza reclusa. Invece di restituire queste persone alla società, che è l'unico modo, chiaramente seguiti da persone, ma accompagnati da persone, però devono stare nella società in mezzo a noi, vivere la vita, questo è l'unico modo per aiutarli. Invece non devono, assolutamente non dovrebbero vivere la reclusione, invece qui si ripropone la reclusione, quindi non c'è stato nessuno scatto culturale. Purtroppo questo governo, in tutte le cose che ha affrontato, dimostra una povertà culturale che noi prima attribuivamo a quei cialtroni, che lo erano e lo sono, cialtroni della Lega, di Berlusconi, eccetera, che però abbiamo visto purtroppo non essere soltanto loro, anche i grandi premi Nobel, che sono grandi persone, le persone che rinomate nel mondo, che dicono di esserlo, purtroppo dimostrano una sottocultura. Per noi, i personaggi di questo governo si autodefiniscono persone importanti, alcuni li incensano come tali, eppure hanno dimostrato una povertà mentale e culturale altrettanto simile a quella dei leghisti e dei berlusconiani. E va bene, perché non c'è stato nessuno scatto di intelligenza anche nell'affrontare questo tema, quando tutti sanno che il disturbo mentale, l'unico modo perché non si aggravi e per appunto restituire alla vita civile queste persone è inserirli nella vita civile. Questo vale anche per i detenuti normali, ma qui la cosa è smaccatissima, è normale, è del tutto, diciamo, non c'è nessuno che dica il contrario dal punto di vista dell'affrontamento scientifico del problema. Conclude: e che il superamento di un OPG passa per il superamento dei dispositivi psichiatrici e giuridici che determinano un internamento privo di qualsiasi termine e al di fuori di ogni garanzia. È ancora possibile in questa fase ragionare per cogliere fino in fondo la grande opportunità che il termine della chiusura oggi ci offre. È possibile farlo, ma in fretta, senza per questo farlo male. Quindi l'appello che chiaramente fa Dario Stefano dell'Aquila di Antigone Campania, che si è molto occupato e ha scritto anche dei testi interessanti sugli OPG e sul disturbo mentale, insomma sul problema della pericolosità, della sicurezza, bisogna buttarci sopra questo problema, non ignorarlo come ci sembra. C'è una sordità spaventosa, strano che un paese che mica tanto tempo fa, negli anni 70, espresse, lo ripetiamo perché Questo, tutti quelli che si ritengono patriottici, no? Che dicono, e invece sono dei cialtroni miserabili. In realtà non si esaltano quelle poche, rare, però ci sono state momenti di grande cultura, di grande, come dire, di grande umanità, ma anche di grande valore scientifico espressi da questo paese, come per esempio la chiusura dei manicomi, la messa in discussione del concetto stesso di malattia mentale, la denuncia del controllo psichiatrico, dell'aggressione psichiatrica. Bene, in questo paese negli anni 70 si è raggiunto quasi l'apice, sicuramente siamo stati al primo posto nel mondo a affrontare in maniera molto alta culturalmente questo problema. Poi chissà che è successo, la cialtroneria ha riavuto il sopravvento, la miseria giornalistica dei cattedratici, i professori universitari, non so, sono la peggior specie, ha preso il potere nell'università, nel mondo clinico e nel mondo politico non ne parliamo, si è crollati dal primo all'ultimo posto sostanzialmente, al punto tale che oggi c'è il Ministero della Sanità, quindi non della giustizia, della sanità, deve predisporre i meccanismi e anche le strutture di come il sistema di cura, di come dovrebbero essere trattate queste persone che fuoriescono dai manicomi criminali che verranno chiusi entro un anno, e non c'è un interesse, un dibattito, non abbiamo trovato sui giornali, questo articolo qui è molto interessante, non sta su un giornale, per scriverlo l'ha dovuto mandare a un sito internet, sta su un sito internet che si chiama www.napolimonitor.it. Non c'è stato un dibattito, i giornali che dicono di essere giornali colti, tipo Repubblica, il Corriere della Sera, purtroppo scritti da dei cialtroni, perché sono tali, che scrivono anche di carcere, dicendo delle banalità a volte. Non c'è un dibattito, non c'è un dibattito tra le forze politiche, non c'è un dibattito tra la stampa, nella televisione, nelle radio, non c'è un dibattito da nessuna parte, mentre qualcuno in una stanzetta chiusa sta costruendo i nuovi manicomi criminali, che saranno piccoli ma saranno tanti, diffusi nel territorio, e che non sapremo come verranno fuori, e il rischio, come dicono molti, abbiamo letto anche altri articoli, anche Gianni Vatti, alcune personalità interessate, poche purtroppo, che non hanno scosso il torpore miserrimo di questo paese, appunto decideranno la sorte di persone, uomini e donne, senza che ci sia un dibattito adeguato. Decideranno della libertà, e questo è il fatto più grave. Psychotic breakdown, cardboard sign. Everything's faked, and there's nothing to teach. And there's no point in running crying. And a MLOST lost. In a garden of evil. Allora, invece di, diciamo, coloro che governano questo paese, anche queste questioni delicate, sono tutte delicate, perché anche i problemi del lavoro, abbiamo visto con che brutalità, con gli scarponi, si sono messi gli scarponi, gli anfibi, quelli stessi che hanno le guardie quando pestano il corridoio delle carceri. Parlavo dei governanti, i tecnici delle banche, i nostri grandi economisti cosiddetti usano gli scarponi, gli anfibi per pestare i diritti, i modi di vita, con la stessa brutalità e ignoranza sostanzialmente con cui affrontano tutti i problemi. Hanno affrontato anche il problema del carcere, l'abbiamo visto sugli OPG, no? Senza, invece di così aprirle un dibattito alla società per sapere che cosa ne pensa la gente, cioè qualche dibattito per capire, cioè abbiamo una grossa esperienza a recuperare il dibattito degli anni 70 sulla infermità mentale, su queste cose qui, e va bene, e invece appunto hanno fatto in silenzio, in clandestinità, stanno costruendo i nuovi regolamenti. Un altro regolamento stanno mettendo mani, è quello normale per tutti i detenuti e le detenute, il regolamento dell'ordinamento penitenziario, così si chiama. Quello che parla delle misure alternative, dei comportamenti, di quello che puoi fare e quello che non puoi fare, della grave di pena e delle riduzioni di pena, insomma. E su questo vogliono fare, hanno deciso di fare, una carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato. Su proposta del Ministro della Giustizia, in concerto con il Ministro dell'Economia, leggiamo questa agenzia del governo stesso. Scusate, e quindi Ministero della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto presidenziale che introduce modifiche al regolamento sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà. E queste modifiche introducono nell'ordinamento la carta dei diritti e dei doveri del detenuto e dell'internato. Vedremo quando esce fuori le modifiche all'ordinamento penitenziario che cosa comporteranno, quando ce lo faranno conoscere lo discuteremo. E intanto però prevede che sarà pubblicato, cosa che dovevano fare da secoli, insomma l'abbiamo fatta noi a volte per informare i detenuti di quali sono i loro diritti e i doveri. Adesso hanno scoperto che bisogna fare una carta, cioè un opuscolo dove vengono scritti i diritti e i doveri in base a questo ordinamento penitenziario vigente di ciascun detenuto e ciascuna detenuta, che cosa possono fare e che cosa non devono fare. E quindi questa cosa verrà diffusa a tutti coloro che entrano in carcere e vabbè, insomma, permetterà perlomeno la conoscenza, perché dovrà essere fatto in più lingue, speriamo che lo facciano, perché finora è successo, ancora fino ad oggi 2012, pensate, c'è una situazione in cui molti, no, volontari nel carcere, persone che frequentano il carcere, vedono persone che si aggirano nel carcere e non sanno nemmeno dove sono capitate lì, soprattutto non solo per gli stranieri, cioè quelli non italiani, ma anche persone italiane, che non è che tutte le persone italiane conoscono i regolamenti penitenziari, no? Finché non ci vanno a finire lo ignorano spesso il carcere. Questo è un male, però non è una colpa, chiaramente. Beh, quindi i capitani non sanno, domandano a destra e a manca, ovviamente le guardie ne sanno di meno di loro, e non sanno che cosa possono fare, le richieste, a volte si perdono per esempio delle possibilità di uscire prima perché non sanno come fare una ipotetica domanda e così via. E allora adesso finalmente verrà fornita quella carta dei diritti e dei doveri del detenuto. Vabbè, è rasente e ridicolo tutto ciò, però noi ne diamo lettura, ovviamente. E allora, le 15.41, ancora in diretta, e come avevamo annunciato, commentiamo adesso, anche valendoci della conoscenza che Giovanni Russo Spena ha del problema carcere e anche in generale, che, perché se lo segue da molti anni. Ciao Giovanni, lo salutiamo. Pronto? Ci senti? Sì, un po' più forte, parla un po' più forte e sento un po' più. Ok, dai, così ti... Allora, Carmelo Musumeci, un ragazzo, ormai un uomo, incarcerato, ormai un uomo da molto tempo, e ha, come abbiamo detto più volte, l'ergastolo ostativo, cioè il rischio di questa situazione. Però non parla prevalentemente di questo aspetto, ma ci ha mandato la sua busta paga, che è veramente ridicola. Ora, noi abbiamo sempre saputo che in carcere la cosiddetta mercede, cioè il salario per il lavoro interno al carcere, è stato sempre molto ridotto, un terzo di quello generale, molto ridotto, e quindi misero. Ma qui ci arriva una busta paga che dice: per un mese ha lavorato un mese e gli danno 52,37 euro. diventano 47, 79, perché una parte viene preso per il fondo vincolato con cui paghi le spese di mantenimento, eccetera, eccetera. No, addirittura appunto gli fanno pagare le spese di mantenimento con un lavoro di 13 ore, è chiaro. Quindi arriva a 28 euro netti, alla fine 28 e 60, sì, 28 euro, cioè. sì 28 e qualcosa. Ora, è una situazione sì generale che abbiamo visto negli ultimi anni, con un grave peggioramento in tutti gli istituti, cioè praticamente la legge Smuraglia e la legge sul lavoro, che già era appunto pessima, e praticamente di schiavitù, comunque anche quel poco che permetteva di mantenimento delle piccole spese del detenuto, in effetti quasi non esiste più, come si vede, ormai siamo agli spiccioli. E tenete conto che io sono stato a Spoleto più volte a trovare Musumeci è un detenuto che fa lo scriviano bibliotecario ad alto livello, mantiene l'intera biblioteca di carcere, la rinnova con grande cultura, insomma, Carmelo è un letterato vero, è diventato in questi anni, ha scritto due libri di grandissima forza, non solo di denunzia del sistema carcerario, ma anche letterario, e quindi prende questa cifra. Noi avremmo deciso, adesso stiamo facendo questa con il nostro sportello carceri, con Mario Pontillo che lo dirige, con l'avvocato Ante Tommaso e i giuristi democratici, abbiamo deciso su questo di raccogliere per ora, anzi la radio potrà essere molto utile in questo senso, di raccogliere le buste paga dai vari istituti di Roma ma anche d'Italia, e ne stanno arrivando dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Umbria già, e puntiamo a quelle campane perché sono carceri importanti e a quelle palermitane ovviamente. Appena avremo questo materiale, entro poco tempo, abbiamo deciso con i nostri avvocati, con l'ufficio legale di Rifondazione, di aprire una vertenza nazionale, tentando anche un coordinamento appunto con le radio, con i movimenti, con l'Oradaria, le riviste e le associazioni, perché insieme, diciamo, alla questione sanitaria, sapete che ormai perfino le aspirine se le devono comprare i detenuti, e questo del lavoro è l'altra grande questione che deriva poi da una bulimia carceraria, deriva da un'idea giustizialista del carcere, no? Cioè nel carcere ci sono detenuti, butta lì la chiave e tienili dentro per sempre, già, e ci fanno pure spendere un sacco di soldi, quindi è bene che noi società gli diamo i meno soldi possibili. Questa idea, insomma, leghista, di destra, giustizialista sul carcere è passata, e devo dire che continua finora, anche in questo, che non è leghista, anche in questo governo continua. Appunto, ma finora devo dire che nonostante qualche chiacchiera, certo, ministro della giustizia e ministro dell'interno non hanno mosso dito, infatti, certo, noi vogliamo investire di questa vertenza direttamente questo governo, perché abbiamo il sospetto che al di là delle chiacchiere questo governo, oltre che sfruttare lavoratori precari eccetera, non muova dito nemmeno per cancellare nessuna delle pessime leggi giustizialiste e sicuritarie del governo Maroni-Berlusconi. Certo, quindi prima di tutto la Cirelli, pensiamo alla recidiva, pensiamo alla Bossi-Fini, alla Fini-Giovanardi, certo. Cioè, voglio dire, finora abbiamo avuto solo qualche chiacchiera sul sovraffollamento, peraltro facendo approvare un mini provvedimento che sì o no libererà 2500, sì, massimo 3000 persone, una goccia nel mare. Appunto, tra l'altro, voglio dire, è un provvedimento che anche pericoloso, perché per la parte che, per evitare quello che si chiama in gergo la porta girevole, mette i detenuti nelle celle di sicurezza delle questure, insomma, senza nessun controllo, senza che possa essere visitato da nessuno, stanno peggio che in carcere, insomma, certo. Quindi io vedo anche dei grossi pericoli. Non dimentichiamo che alcuni omicidi di Stato, morti di detenuti negli ultimi anni sono avvenuti nelle lì, celle di sicurezza proprio, certo. Allora, cioè, sicurezza, perché il luogo meno garantito. Io devo morto, perché la ministra continua a dire, ma io così evito che 20.000 persone entrino alla porta girevole. Io devo dire, da un po' da vecchio esperto, insomma, di questa materia, mi si accappona la pelle quando sento queste robe. È molto pericoloso, perché lì non c'è controllo di un parlamentare o di un consigliere che può andare, non c'è controllo di legali, di avvocati, nemmeno del controllo dei compagni di detenzione, appunto, che in carcere in qualche modo ti sostengono. Ragione, c'è un controllo dei compagni di cella di detenzione che lì manca, certo, invece nel carcere, certo, c'è, certo, appunto, sì. No, ma infatti, questo sono i due punti immediati, insomma, su cui investire anche il nuovo governo, insomma. Tra l'altro il precedente governo, cioè Berlusconi, aveva anche messo le mani sulla, sulla cassa ammende, che sono le multe che pagano i detenuti e che dovrebbero tornare in, ai detenuti. Invece, ecco, anche su quello non fanno, stanno non ci stanno restituendo i soldi. Infatti, la vecchia questione abbiamo aperto già 6 anni fa, poi abbiamo ripetuta col governo Berlusconi, e sì, questi sono soldi proprio rubati, perché, perché sono soldi destinati precisamente dalla legge, sono soldi destinati dalla legge, e la destinazione viene, viene invece dirottata, quindi siamo in una situazione di illegittimità. Però devo dire che tutto il sistema carcerario italiano, dal mio punto di vista, giuridico, costituzionale, è tutto in uno stato di illegittimità. Voglio dire, per quanto riguarda le condizioni di detenzione e anche per quanto riguarda appunto la cassa ammende. Certo. E questo fa ridere in momenti in cui poi da tutte le parti si esalta la legalità, no? Come se fosse laddove è proprio il primo, è primo lo Stato, comunque coloro che lo impersonificano, che violano perlomeno i diritti dei più, degli ultimi, poi sono proprio gli ultimi. Non hanno neanche la possibilità di difendersi da soli, perché non possono organizzarsi in sindacato, in fagnè, almeno. Vabbè, la legalità in carcere assolutamente non esiste, perché è stato abbattuto quel principio che è fondamentale dello Stato di diritto, che già il pretore romano, insomma in latino, si chiamava l'habeas corpus, no? Cioè l'habeas corpus significa che quando tu sei col tuo corpo, appunto, nelle mani dello Stato, è lo Stato che ti deve garantire legittimità, sicurezza, legalità. E qui invece abbiamo i casi come quelli di Stefano Cucchi, di Aldo Grandi, cioè abbiamo i casi in cui, altro che integrità corporea, qui vengono ammazzati, quindi siamo proprio in uno stato di piena incostituzionalità. Completamente. E infatti sono passati 400 anni di passi indietro, purtroppo pare, rispetto all'habeas corpus, diciamo. E non è che è da stare molto allegri. Bene, noi ti ringraziamo, Giovanni, e vabbè, e poi vabbè, ci sentiamo per il prossimo, perché è evidente che la radio può dare anche un grosso contributo per questa vertenza che vogliamo aprire sul lavoro, eh. Certo, infatti facciamo un appello a questi microfoni, a chi ci ascolta, da legarci quelle romane per ora, perché da qui ci ascolta, di mandarci fotocopie o anche ricopiature, le buste paga, così raccogliamo questi dati. Ecco, il massimo di informazione è utile per costruire questa mappa su cui poi aprire il ricorso, insomma, che anche sul piano giuridico vogliamo Si può anche vincere anche usando la io penso di sì. Sì, anche puramente la questione sindacale, perché qui c'è un rapporto di lavoro che viene violato. Qui c'è un contratto nazionale non rispettato, non rispettato da più di 20 anni, insomma, quindi sì, ci sono delle condizioni possibili anche sul piano giuridico. Sì. Qualche tempo fa con i COBAS facemmo una vertenza per qui a Re Bibbia per alcuni, e sono stati restituiti un po' di soldi rispetto per cui si può fare, ci sono i termini per vincerla. I termini secondo me ci sono, infatti bene, se si organizza bene, se fa un buon ricorso con gli avvocati che seguono, io penso che si possa anche vincere, questa vertenza. D'accordo Giovanni, allora ci sentiamo e buon lavoro anche a te. Grazie, ciao. Buon lavoro anche a voi, ciao. Passed and fumbled E allora, come avete sentito, chi ci ascolta, quindi detenuti, le detenute che ci ascoltano dalle carceri di Roma, qui di Roma, dove arriva questa voce, invitiamo quindi a mandarci documentazione sul lavoro che fate in carcere. La Mercedes si chiama volgarmente, in termini diciamo, in gergo carcerario, il salario che prende il detenuto, la detenuta che fa lavoro interno al carcere, no? Portaviti, scopino, bibliotecario, scrivano, eccetera. E mandateci documentazione, perché con questo si può fare un'avvertenza anche per avere almeno la restituzione di quanto, perché ci sono delle violazioni dal punto di vista proprio anche del contratto collettivo di lavoro, che non viene più aggiornato. La norma dice che la mercede dei detenuti è un terzo della quota del contratto collettivo nazionale di lavoro, ultimamente in vario, invece questo è rimasto fermo a 10 anni fa. E allora, ancora su questa vicenda, abbiamo un volontario del carcere, un compagno anche di questa radio. Ciao Mario, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, sì, infatti qui il caso, siamo partiti dal caso di Carmelo, ma immagino che di Lusumeci, no? E questa cosa appunto riguarda a pressoché tutte le lavorazioni interne al carcere, perché la riduzione delle quote, diciamo, dei fondi destinati alle retribuzioni dei detenuti lavoratori sono passati appunto da 71.400 euro nel 2006 a 49.000 euro nel 2011. Quindi questa decurtazione viene applicata a tutti coloro che lavorano, quindi sono meno quelli che lavorano e prendono meno, con degli artifici spaventosi, come questi che ci segnala appunto Carmelo Musumeci, che dopo un mese di lavoro in busta paga secca prende 28,67 euro. Pensate un po', 28 che se uno, non so se fuma o meno, Carmelo, tu l'hai visto? No, non fuma. Meno male che non fuma, perché nemmeno le sigarette ti compri, chiaramente, se in un mese di sigarette non ce le compri con 28 euro. Ed è un problema grave, soprattutto, non solo per tutti, no? In particolare in questo periodo dove il carcere italiano è pieno di detenuti cosiddetti stranieri, non italiani, che non hanno nemmeno il conforto della famiglia, che ti può mandare due soldi, degli amici, perché non ce l'hanno ancora su questo territorio, o perché se ce l'hanno sono più scannati di loro. Quindi mentre fino a quando mi ricordo stavo io in carcere qualche decennio fa, c'erano, la gran parte erano italiani, in qualche modo sopravvivevano con quello che gli mandavano i parenti, gli amici, no? Un vaglio ogni tanto arrivava e tirava avanti. Immaginiamo che i detenuti stranieri non hanno, cioè, con questa cifra del lavoro in carcere è veramente agghiacciante. E allora, cosa hai riscontrato appunto tu nei tuoi girovagare nelle carceri? Allora su questo tema sempre, poi sì, sincera, sì. Se no finiamo dopo domani, no, e no, parliamo, no, delle brutture del carcere. Esattamente. Allora, Salvatore, diciamo così, come giustamente hai detto te, io faccio notare solo una nota prettamente matematica: i detenuti attuali sono oltre 68.000 in Italia, se stanzi già nel 2006 71.400 euro, ti dico che c'è un euro per uno. Se dovessero effettivamente lavorare tutti, come sarebbe di diritto per i processi, come dice l'ordinamento penitenziario e le leggi dello Stato, che il carcere dovrebbe riqualificare e reinserire. Per cui adesso è ridotto a 49.664, per cui sempre 68.000 sono, per cui lo aspetta, diciamo così, pro capite, se dovessero effettivamente, come dicono le leggi, lavorare, spetterebbero 50 centesimi per uno, più o meno, insomma, forse un pochino di meno. Per quanto riguarda, e hai affrontato con Giovanni giustamente la rappresentanza sindacale, il sindacato, cioè la rappresentanza, dovrebbe esserci la tutela, come giustamente dice Carmelo, ma dicono anche altre persone. Carmelo nella sua lettera inverte, e questo sostanzialmente penso che lo fa solo perché l'ha inviato al Ministro della Giustizia, perché lui dice che è un detenuto lavoratore. Lui è un lavoratore detenuto, anche se la sua condanna purtroppo non ha fine. Ma il processo mentale e sociale che io mi sto impegnando insieme a te, naturalmente, come voce nell'etere e via, è cambiare la mentalità. Qui ci sono, non sono la custodialità e la sicurezza prevale su ogni concetto in questo, se posso dire, un po' imperialista e capitalista. E e securitario. Il problema è questo, è cambiare il modello di pensiero. Forse così potremmo, diciamo così, apportare una ventata di cambiamento, perché io sono detenuto, la mia condizione di detenzione, indipendentemente dall'atto giudicante, è una condizione temporale e io lì sono un lavoratore. Se sono un lavoratore e lo Stato mi assume, perché parliamo di persone che vengono assunte per i lavori domestici dal carcere, cioè dallo Stato. Certo, allora, ma il discorso, e questo ti porto un po' di esperienza passata, perché lo sollevamo anche noi a suo tempo, no? Quando stavamo, quindi parlo degli anni 90, ovviamente la risposta con i codici alla mano, ci dicevano: un'organizzazione sindacale non è possibile tra detenuti, perché se i detenuti si organizzano, siccome sono criminali, diventa un'associazione criminale. Capito il meccanismo qual è? Cioè, essendo noi bollati come criminali se stiamo in carcere, nel momento che ci associamo siamo un'associazione criminale. Questo è il ragionamento perverso che fanno, per questo è impossibile una classe, una dinamica sindacale, sì, come la class action. E io questo lo so, naturalmente è cercare dall'esterno di portare, infatti, diciamo così, di portare alla luce queste disparità, perché molte persone non lo sanno, lo sanno solo le persone recluse, che se io sono un agente e tu sei la persona detenuta che sta lavorando anche con una lavorazione cosiddetta esterna, cioè quella che si rifaceva, come diceva Giovanni, alla legge Smuraglia, cioè lavorazione esterna portata all'interno del carcere attraverso cooperative, attraverso società e via, se io e te abbiamo un contenzioso che non è di natura lavorativa ma è di natura procedurale e securitaria, che mentre la sede, no scusa, me devo alzare un attimo, oh, allora ecco ti faccio il rapporto, certo. Questa è la persona perde il lavoro, ma non per l'incapacità diciamo così professionale che è, per una questione di sicurezza, esatto. E questo avviene regolarmente, certo. Regolarmente, questo è un dramma, per il semplice fatto, come dicevi te, che il lavoro è frazionato. Il lavoro è, a parte che non è riqualificante, per cui è solo ed esclusivamente il lavoro domestico, tranne minuscole realtà e anche molto selezionate, per il resto se io sono cattivo, no? O sono criminale, e tu Stato ti arroghi il diritto, dovere di riqualificarmi, è usato un altro termine che a me, devo dire la verità, mi fa schifo e via, va bene, allora facciamo così, se il processo deve essere di riqualificazione, io ti devo dimostrare che io con te applico delle cose che tu invece fuori non hai applicato, ma nel momento in cui lo Stato diciamo così, non applica il contratto nazionale del lavoro dal 1994, non esiste, penso, una società in Italia che non abbia avuto, naturalmente attraverso le lotte, se no chiaro, da mo che ne avevano rinnovato, insomma, che non ha rinnovato un contratto per 18 anni. E ci sono dei ricorsi da parte di persone detenute attraverso il Tribunale del Lavoro che condanna sistematicamente il carcere a rimborsare, a indennizzare la persona detenuta. Questo non avviene perché non hanno soldi, per cui è non riqualifica, non segue il contratto nazionale che è una legge dello Stato e non è insolvente nei confronti della persona che ha fatto ricorso, io non lo so, siamo nell'illegalità più totale. Certo, certo, per infatti. Quindi, io è chiaro, però, come appunto diciamo Giovanni, il problema è, sappiamo queste cose ormai, e invece di lamentarci proviamo a mettere in moto un meccanismo per ribaltare questa situazione. Quindi raccogliamo il materiale, la documentazione necessaria per fare questa denuncia, e probabilmente si può anche fare una battaglia che porti a un risultato, perlomeno al rimborso di questi soldi veramente rubati dalla tasca dei detenuti, perché qui il governo mette la mano nella tasca non solo dei cittadini ma proprio addirittura degli ultimi, dei detenuti, che nelle tasche hanno vuote, pressoché vuote, ed è una cosa veramente vergognosa. Quindi penso che l'appello da dentro a mandarci documentazioni, e da fuori cercheremo di mettere in moto le dinamiche anche di carattere vertenziale esattamente quello che dobbiamo sconfiggere, Salvatore, quello è un mio impegno, è sconfiggere l'indifferenza, perché è uno dei procura dei danni allucinanti, naturalmente sulle persone incluse, sui loro parenti e su tutto chi è, purtroppo si vive l'inclusione penale e l'esclusione sociale. Certo. Diciamo così che anni, 10-20 anni fa, anche se il carcere è stato sempre è stato sempre coercitivo, è stata sempre una autorità costante, fatto di prevaricazione, di violenza e via, ma anche in quella violenza c'era la rappresentanza della persona umana, anche se io sono esecutore, diciamo così, tutore di un ordine, di una sicurezza, uso dei mezzi coercitivi, però riconosco a te come persona, adesso no, adesso c'è l'indifferenza totale, stai bene, stai male, stai morto, non gliene frega più niente a nessuno. Questa è è una sordità sociale che è spaventosa, vale su tutti i terreni, i lavoratori disoccupati si devono arrampicare sui campanili per far sapere che hanno perso il lavoro, quindi figurati a livello... menati, ma l'hanno visto in faccia a sta gente. Ma che queste sono persone che vivono a fianco a noi, questi sono donne e uomini della porta accanto, nel vero senso della parola, che devono menare. Ma chi è che ha voglia? Chi è a 50 anni, 60, 48, che ha voglia di scendere in piazza se non c'è un problema grave? E imminente, nessuno, no? Chi è che c'ha se c'è un motivo. Io quello che sento nel mio lavoro è sempre sono venuti a rompere, ma si sono partiti dall'altra parte d'Italia per venire qui dove c'è la rappresentanza, come dite voi, a rompere, ci sarà un motivo, no? Certo. Se no sto a casa mia, esatto. Faccio il lavoro mio, sto con mio figlio, mia figlia, cara, come ti pare. Cioè, ci sarà un motivo, perché non ascoltare quel motivo? Questo purtroppo è un grande tema. Va bene Mario, dai, e noi qui purtroppo dobbiamo concludere la trasmissione, però per questo tema ne riparleremo, perché è un tema scottante, tra l'altro è una battaglia che questa la possiamo vincere anche con le minime forze che abbiamo oggi, perché perlomeno abbiamo, cioè, vuoi dire, stavolta le carte a nostro favore, se però ci muoviamo adeguatamente. Tiriamo il filo che diventa una corda, tiriamo tutti insieme. D'accordo, grazie Mario, grazie a tutti. Ciao, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Bene, quindi di nuovo rinnoviamo l'invito a chi sta in carcere di mandarci documentazione sulle loro buste paga, su quanto prendono di mercede per il lavoro domestico interno al carcere, si chiama lavoro domestico, e noi vedremo insieme ad altre forze che cosa si potrà fare per risolvere questo problema. La trasmissione finisce qui. Che è la rieducazione. Certo, questo non voglio aprire, se no favore.